Ho fatto del bene, ho fatto del male. Sono rimasta sopra il ciglio di un burrone senza mai cadere. E pago il mio conto per aver speso le ambizioni di una vita tutta in un secondo. Non ho fatto tesoro del tempo, ma se resti al mio fianco potrò dimostrarti le cose che ho dentro e prometto che farò dei miei difetti la mia perfezione. Farò delle mie sbandate la mia direzione e alla prima tentazione saprò dire di no. E se non funzionerà la colpa sarà mia, ma non cambierò mai rotta, seguo solo una via. Vorrei solo che tu un giorno fossi fiera di me. Ho fatto del bene, ho fatto del male, ma dimmi tu cos'è la vita di una donna che non sa rischiare. Sei rimasta al mio fianco comunque, anche quando ero fuori di me. Noi non siamo una cosa qualunque, siamo stelle. E farò dei miei difetti la mia perfezione, farò delle mie sbandate la mia direzione e la prima tentazione saprò dire di no, no, no. E se non funzionerà la colpa sarà mia, ma non cambierò mai rotta, seguo solo una via. È stato un maledetto giorno che ero fuori di me. Ero fuori di me. E se non funzionerà la colpa sarà mia, ma non cambierò mai rotta, seguo solo una via. Vorrei solo che tu un giorno fossi fiera.